era solo questo qua. Io l'avevo già controllato col tachimetro della macchina. Partendo da casa mia per arrivare dove sei tu sono esattamente 9 chilometri. E sembra vicino, sembra, ma in realtà non è così vicino. Dunque, se tu da questo sandro vedi che sono io a 30 chilometri, io come minimo sono a 40 chilometri. Ecco la differenza, la verità. Ho già fatto dalla posizione anche, basta, eccetera, eccetera. Ma per dirti, sembra così. Sembra vicino, da casa mia, a casa tua non è così vicino. Io lo so benissimo perché lì ho di Eugenio, in quella zona che abita la testa, che non so quante distanze. Sono 9 chilometri da casa mia a arrivare lì dove sei tu. Lo so perché mia figlia lavora a Predagneta, quindi sono quei 9 chilometri lo stesso. 9 andare e 9 a tornare. Quindi già lo so, vabbè, una volta che passi lì le gallerie non è facile parlare con loro. Va bene, è bello carino, è finito Beh, se mi scendi di capo, mi hanno mandato le connessioni, adesso te le sto facendo, vediamo un po' se sono queste. Se no abbandono, sono da ieri, cazzo. Grazie, ma anche ti di bigli impegni, mamma mia, cara. No, ne fai io qua, credetemi, che con tutte le mie capacità, la mia buona volontà, mi metto a fare di tutto e di più. Capito? Per me e anche per gli altri a volte. Ma non mi chiedete di fare connessioni perché intanto non ne tolgo piedi, non mi va. Non ci riesco, non ho pazienza, niente. Allora ogni tanto mi vado da Andrea e me le faccio fare da lui, capito? Perché non ci vedo, ho questo salvatore di avere le cose errate, le cose giuste. Assolutamente, una rottura di scatole, non so per te Giulio, ma io prima li facevo in 5 minuti, qualsiasi tipo di connessione, adattatori, di tutto, adesso non ho più pazienza a fare quelle cose. Sì, qua, ma io sono anni che lo dico frequenta, non lo ripeto anche adesso a Luca. Io ho sempre fatto questo sistema, non ho mai toccato lo spinotto del baracchino, non si tocca quello. Prendi un cavetto a 4 fili, a 6 fili, se ti servono 6 fili, è uguale. Prendi uno spinotto che si possa inserire nel baracchino. A questo spinotto ci salvi il cavo a tutti i contatti dello spinotto, tutti. Quanto sono? 5? E 5 saldature fai? 4 saldature. Dall'altra parte, questi 30, 40, 50 cm di filo come spessore, va serrato e lasci tutti i contatti liberi a vista. Prendi il microfono, lo spinotto del baracchino e infili uno per volta i fili che hai installato, li infili dentro lo spinotto del baracchino, cioè del microfono, e trovi in 5 minuti trovi il collegamento, non ci sono dubbi, non puoi sbagliare e non esci fuori di testa. Ti prendi un pezzo di carta e una penna e ti fai lo schemino come hai infilato i fili, e poi potevi saldare eventualmente con l'altro spinotto che metterai nella prolunga. È talmente facile che non riesco a capire per quale motivo uno debba uscire fuori di testa, nella maniera più assoluta. E io l'ho fatto anche alcuni giorni fa, che ho messo il MB25 all'HB23, ma ci ho impiegato 10 minuti a fare il tutto. Non è vero il motivo perché uno debba perdere la testa per fare una cosa del genere. Avanti Luca. Vabbè, questo qua l'ho già portato così con i fili staccati, mica roba mia, sto facendo un favore. Adesso vediamo, voglio saldare, adesso faccio la prova, voilà, scusatemi un attimo. È quello l'errore, non devi saldare niente, fin quando non sei sicuro. L'unica saldatura che devi fare sono quelle dello spinotto che attacchi al baracchino. L'altra parte del filo lascialo stare spelato e infili dentro lo spinotto del microfono uno per volta, scambiandoli fin quando non trovi i contatti giusti. Dopodiché ti prendi la penna e ti segni come hai scritto, come hai inserito i fili. E poi saldi tranquillamente, senza nessun problema. Ma è claro, non mi sembra che sia così difficile. No, ma Luca l'ha già lasciato fare di adattatore, mi ha fatto uno a me da 8 a 4, capito? Io posso usare l'MB più 5 anche col Kenwood, capito? Quindi no, voglio lasciare fare queste cose. È che quello spinotto lì c'era il down e up, è uno spinotto a sé, una rottura di scatole, capito? È così, vabbè, comunque. Già una passione, Luca, dai. C'ha passione e buona volontà di fare cose, quindi non ci sono problemi. Mi sentite? È fatto, Guarda un po'. Oh, Vittorio, certo che è fatto. Ok, dai, a posto, se gli metto un pezzo di nastro, lo chiudo, dai. Va bene. Hai visto. Piano piano già si fa tutto, dai. Anche una bella radio, bella, 5, perfetta. Lo senti? Sentito, dai, Giulio? Sì, l'ho sentito, certo. Ma uno non deve prendere la testa per fare certe cose. Quando c'è il sistema, semplicissimo, ma semplice veramente. No, non è quello il discorso. Facendo come ho detto, sono quanti disegni queste cose in frequenza io, come fare la cablatura del microfono. Sono anni, ripeto, io i microfoni non li tocco, è originale, devo rimanere originale. Per cui, guarda, dico, ma perché come faccio l'MC60 per i baracchini? Faccio una cablatura di quella, ma sempre tramite prolunga, però non è che vado a toccare lo spinotto dell'MC60, non so come si macolo, ma per dire, no, trovi, c'è gente addirittura, senza fare nome, tu già lo sai chi è, che avevo messo l'MC60 al PMR, non lo so, buio, dimmi tu, pazzesco, eppure l'ha fatto e ha funzionato benissimo, cosa da pazzi naturalmente, però l'ha fatto, ma l'ha fatto più che altro per divertirti, per fare esperienza di un certo sistema di lavoro in elettronica, tutto lì, i microfoni, ma anche un po', io vedete ce l'hai i microfoni, quelli che usavo per cantare, anche quelli, io avevo adattato anche quelli, poi alla fine non me ne faccio niente, li metti da parte e basta, perché io ce ne ho 3 o 4 di questi microfoni per cantare, e una volta uno l'ho preso, ho fatto la prolunga, ho fatto tutto, ho provato e funzionava, meraviglia, funzionava. Allora voi alla fine cosa ne fai? Un microfono per cantare è un discorso, proprio un microfono per trasmettere un altro, ci mancherebbe altro, ecco com'è qua. Sì, ma è così. Beh, anch'io l'MC60, ho usato il 60, l'80, l'85 con il presidente Lincoln, però c'aveva l'adattatore, avevo il suo adattatore, funzionava benissimo con le batterie. Funzionava benissimo alla grande, infatti l'avevo fatto fare anche a Franco di Sorso, però non andava bene come il mio, forse la modulazione sempre rispetto a lui, ma il mio era fortissimo, era a livello proprio del K, spingeva che era una meraviglia, il presidente che avevo io però era modificato, capito, da Archimede, che entrava sempre ogni tanto, adesso non sta entrando più. Quindi le ho usate, però ne ho fatto tantissime io, e l'altra volta non stavo usando il 60 con cioè l'MC80 con il 756 della ICOM in 27, ne faccio tante proprio, ma sempre come stai dicendo tu, a livello sperimentale, hai capito? A livello sperimentale. Prove se ne fanno tante, l'importante è che si capisca quello che stai facendo e soprattutto non fai danno, tutto qua. Beh certo, la prima cosa da fare è quello, controllare che non devi fare danno, perché io non avevo messo l'LB più 4 alla radio grande, l'avevo adattato e ce l'ho, la prolunga ce l'ho, adesso è conservata la parte, anzi ti devo di più. Quello lì era un pezzo di filo che avevo comprato, dove l'avevo comprato, forse era GBC, non me lo ricordo, ma ci sono roba di una decina di fili sottili dentro, si possono fare per diverse radio, tu lo sai benissimo, ad esempio il Kenwood ha 8 fili, 8 contatti, io cosa ho fatto? Ho comprato anche lo spinotto, 8 contatti ho preso, un pezzo di filo, che poi era un filo lungo, almeno un metro e mezzo lungo, guarda, e gli ho staccato lo spinotto, e a titolo così di curiosità, ho fatto il collegamento come ti stavo dicendo, uno qualvolta dopo aver stabilito qual era il filo con la corrente eccetera, con quello l'ho fatto col test chiaramente, dove qual era il contatto, dove ci sono gli 8 volt, quello devi stare attento, perché se colleghi quello puoi fare danno. E poi ci ho messo l'MBG4 è andato benissimo, addirittura l'ho prolungato lungo 1,5 metri, proprio perché non ho voluto tagliare il filo, niente di più, perché ne avevo comprato una volta, non mi ricordo, forse 3 metri o cosa del genere, e ho fatto diverse ispezioni, e infatti ce ne ho tante ispezioni, con vari cabracci, proprio per diversi baracchini. E il discorso è questo, ma sempre a titolo di divertimento, di esperienza, eccetera, però funzionano, è altro che se funziona facendo quel sistema. Lupa avanti. Vediamo un po' che ho chiuso tutto, va bene? Sì, alla grande. Sto benissimo, per cui non c'è problema, avanti qua. Va buono, va. Allora lo sto chiamando ma non mi risponde, perché questo qua se lo deve mettere in macchina, là. Va bene. Anni ci sei. Ehi, buongiorno. Ho fatto, dai, sono riuscito dopo, da ieri ho trovato un tipo, dai, mi ha mandato le connessioni e te l'ho fatto, là. Va bene, quando vuoi vieni te lo prendi, ti stavo telefonando anche. Luca, stavo riposato, dai, ho dormito male stanotte, mi sono addormentato in mattinata, ho dormito male, capito? Vabbè dai, non c'è problema, magari vengo stasera, dai, non c'è problema. Quando vuoi vieni te lo prendi, va bene, comunque a posto, sì, aspetta se funziona l'up down, aspetta, sì a posto già, là, perfetto, andava, dai, lo smoto è attacco il mio. E io va bene, e io, ciao, buongiorno, no, va bene anche la modulazione, Lu, è bella chiara, forte, non ci sono problemi, avanti Giulio. Certo, ciao Gianni, d'altronde è così. Gianni, già lo sa che ho tante volte l'ho detto, Gianni, quante volte ho detto come fare per fare il cablaggio dei microfoni, cioè degli istituti per cambiare il baracchino eccetera, sempre con lo stesso, quante volte l'ho detto o Gianni, un migliaio di volte già in tutti questi anni. Vabbè, a me lo spettro non mi piace, perché questi spettatori non mi piacciono, mi piace direttamente avere l'attacco, anche perché quello lo dovrò mettere in macchina, capito? Quello lì era un baracchino che io avevo fermo e le ho cambiato perché era cupo come baracchino, e le ho cambiato la cosa, la capsula, le ho messo un'altra capsula col microfono perché ti dicevano che era cupo eccetera. Che aveva messo il coso, perché quando l'ho aperto ci aveva le saldature a montagna, sapete quelle montagne, così erano le saldature, toccava una con l'altra e rimaneva la portante inserita, capito? Vuol dire che le saldature erano fatte male da uno che non le sa fare già, e il discorso è questo. Sì, ma il discorso della prolunga per trovare il cablaggio è validissimo, poi se uno non lo vuole avere lo spettrone, allora si fa i contatti, si fa il cablaggio dello spinotto nel microfono direttamente. Questo, però secondo me la prolunga, soprattutto in macchina, è comodissima, perché si sa, solamente con la spirale del microfono è troppo corta e lo devi allungare troppo, e così si può rischiare anche qualche interruzione, perché si sa, i fili sono saldati, si possono fare qualche filo. Invece avendo la comodità anche della prolunga, non hai bisogno di allungare troppo il microfono, per cui non vedo perché non possa essere anche comoda la prolunga, e macchina anche, perché no? Se può essere valida. Vai Claudio. Certo che sì. La prolunga va bene anche in macchina, se è messa bene che non strappa, va bene. Ho messo lampadine già alla standard, sono tutta verde, come sai che c'ha gli smitter come quelle del Ruiz, con lo sfondo verde, sai che belli che sono già. Ma li dici tu di quel colore oppure erano già così? No, è perché il Ruiz mica emetti tu. sfondo verde, vedi? Lo sfondo verde. Deve essere, sono i vetrini verdi, i vetrini sono verdi. Sono verdi i vetrini, quindi con la luce bianca c'ha questo sfondo verde, molto bello. Molto molto bello. Esce anche bene. Che microfono ne ha messo? L'MB+5? Sì, l'MB+5. Sto usando sempre l'MB+5 perché c'era il connettore tutto uguale. Tranne il DAC che uso l'altro microfono. Con l'MB+5 uso sia l'Elbex, lo standard, il Polmar, tutti i baracchini che ho. Va bene. La sera lo provo in macchina, vediamo un po' come esce. Con l'antennino quello piccolino, vediamo un po' se va bene quello che si tira su del portatile. Già, io con quell'antennino ti ascoltavo ai tempi quando uscivi da lavorare da Porto Torres e quindi non penso che hai problemi per fare un giro, per andare a Platamona o per spostarti dentro città, nel modo più assoluto, è più che sufficiente quell'antenna, non è che devi stare a bozzi, a destra e a sinistra. Io l'altra volta che l'hai provato ti sentivo benissimo alla grande, vai giù. Sì, beh certo, aveva un impianto fatto bene, in macchina avevo un impianto fatto come si deve, considerando che aveva bucato la capota per mettere l'antenna al centro e nella la posizione più ideale, questo non ci sono dubbi. Però Gianni, guarda che se proprio tu vuoi mettere l'antenna quasi fissa, e vendono i supporti anche per il baule, cioè per esempio per lo sportellone delle macchine, e lo puoi mettere sopra in alto vicino all'antenna della radio della macchina, perché c'è un sistema che si aggancia, si infila dentro il bordo dello sportellone, va infilato in questo supporto che poi a sua volta ci sarà l'antenna. Ed è fissato da sotto, con delle viti, l'unico danno che puoi fare qual è? Che quando avviti le viti ci deve essere sotto la lamiera scoperchiata dalla vernice, però sopra non tocchi niente, nella maniera più assoluta, mentre invece sotto è chiaro che devi far fare contatto con lo sportellone. Sempre che lo sportellone sia di lamiera, Gianni, perché se è in vetrovesi allora è peggio di andare al buio, eh. Vai Gianni. No, non voglio toccare nulla di vernice né niente, no. No, lo metto così, lo metto posticciamente, quando ne ho voglia la metto, tanto molte volte non c'è gente. L'altra mattina l'ho portata appresso, ma sono andato al quadrato a farmi un giro e ne sono fatto la spesa anche dai bimbi e poi io adesso lo accendo, lo metto, c'era anche il posto di blocco di pulizia. Tanto ci avevo fatto occupare la concessione e tutto quanto, tutta la cosa pagata, se mi fermavano potevo mostrarla. E fatto sta che mi sono messo acceso, che è stato lui ha giudizio che lo vedi su, non ho voluto disturbare a nessuno e niente, praticamente non è acceso, spento e poi me ne sono tornato a casa perché ho visto che non c'era nessuno, un po' demoralizzato perché avevo tutta la voglia di provare. D'altronde, se non c'era nessuno, hai visto, perché appena che hanno dato via libera per poter uscire, la gente ha incominciato ad allontanarsi, perché se no prima anche la mattina c'erano diverse persone. E lo sappiamo, e torniamo a quel discorso, a quel discorso che abbiamo fatto anche ieri, se non sbaglio, che non appena che ci sarà via libera, che si può uscire e si può andare in giro, allora si incomincia e si ritorna al vecchio numero di partecipanti alla frequenza, mentre invece in questi ultimi giorni c'è stato un certo affollamento, ecco. Perché appunto, come dice Claudio, la gente ha tirato fuori dalle cantine e il vecchio CB ha tirato fuori e l'ha messo in funzione, poi sentivo bene o sentivo male, e il fatto sta che il numero di partecipanti era aumentato notevolmente. Avanti qua. Si conferma, infatti io l'ho detto, vedrai, letto, fra qualche giorno ci sarà nuovamente più nessuno, saremo sempre quei pochi che abbiamo iniziato, che siamo sempre qua sul 10, e le solite coppie, i soliti amici del canale 23, sarà così, vabbè, comunque. Benvenga se c'è gente, benvenga se non c'è gente, a me non mi interessa, io intanto quando c'è gente modulo con voi e basta, non è che sto lì a andare a destra e a sinistra, ma ok, ma non mi debba spostare per fare qualche prova, tutto qua. Va bene, adesso provalo già, se vedi che non c'è nessuno, mi fai un colpo di telefono e facciamo la prova già, anche stasera, non andare in treno a casa lì, adesso le 5, verso quell'ora lì, 4 e mezza, le 5, provi e vediamo un pochino come esci, capito? Sì, io Giulio dico una cosa, meglio pochi ma buoni, perché in mezzo a questa gente che sta entrando, anche chi mette la portante, stanno ricominciando le cose che non ci piacciono. Sì, io mi ero allontanato un attimino. Sì, ma si sa, succede sicuramente così, ma comunque adesso vediamo bene. Però uno in più ce l'abbiamo, almeno nel cammino abbiamo in più Claudio. Cosa giù? Dico, come numero di partecipanti alla frequenza, se tutti quanti quelli che ne sono usciti fuori dopo, al limite torniamo al numero che avevamo prima, però uno in più ce l'abbiamo, c'è Riccardo anche. Sì, vabbè, ma Riccardo, bravissimo ragazzino, sta iniziando, va bene così. Però come io ho già detto a Gianni, la battuta che ho fatto qualche settimana fa, è che purtroppo nel complesso dell'ingresso di persone valide e non valide sta entrando anche Mondetta, gente che non gliene frega niente di fare questione, gente che ha messo il baracchino per ascoltare i cacchi degli altri e per disturbare, e questa è una cosa che non va bene. Ok, quindi uno l'ho già pizzicato, non è che tranquillo e sereno, con la conferma e l'aiuto di qualcuno un po' più lontano da Sassari abbiamo verificato che una persona l'altro giorno stava disturbando, non capisco cosa ci aveva in testa. Comunque, va bene lo stesso, non c'è problema, sappia però che con me ha chiuso, nel senso che quando ci sono io nel canale 10 no, non ci deve neanche entrare, perché ha disturbato parecchio, era tutta la sera, poi non è bastato il 10, è andato nel canale 20 a rompere le scatole, capito? Perciò fatti che l'amicizia lunga, stai pur certo, se sia l'ascolto, che quando ci sono io nel canale 10 non c'entrare più, perché intanto non ti faccio parlare, ti ricambio ciò che tu hai fatto l'altra volta, questo non ci sono dubbi, vai Gianni. Io mi stavo ascoltando, ho sentito anche che Torino si è comprato un apparecchio nuovo, che apparecchio si è comprato? Chi già? Torino, ti ho detto che avevo un apparecchio nuovo, me lo sognato. Sì, stavo ascoltando ieri notte, ieri sera verso le 9:30-10, stavo parlando con Antonello, è un bel baracchino, un base, è un bel baracchino. Un bel baracchino che è simile all'Argus, 5000 Dixie, una bellissima radio, simile, però non mi ricordo adesso come si chiama, però molto bella, molto molto molto bella, veramente una bellissima radio, un base eccezionale, l'abbinato il tane più 3 ed esce veramente molto molto bene, non me lo ricordo già, però è, guarda, per farti capire, la foto del Royce, forse anche più bello del Royce. Pensavo che gli mandasse il gas, perché ha detto io l'ho trovato in continente, mio cognato uno ve lo sta mandando, ma pensavo che fosse il gas. Già, senza offesa per il Galaxy, ma è 10.000 volte più bello, è grande come quello, c'è anche le mani lì davanti, perché l'ho visto nella foto, ma non mi ricordo che come si chiama, ma è molto più bello il Galaxy, ma neanche a paragone. Sto dicendo che è più bello del Royce, quindi lo sai che io quando parlo dico la pura verità, se una cosa mi piace dico è bella, se non piace giustamente è giusto dire a me non piace, Ok, però quello è veramente bello, non mi ricordo, è tutto nero, bellissimo, c'ha delle bellissime cromature, c'ha tre strumenti, è molto bello, molto molto, non mi ricordo come si chiama, l'ho visto ieri notte, vai giù. Ok, io non lo so perché non c'ero ieri notte all'ascolto, per cui non ho potuto seguire questo discorso qua. Sì, a proposito, quanto ti arrivo io su quel DAC lì, su quello smitter, di segnale? Vai. Allora, sì, 9 e 15 con picchi a 9 e 18. E questo è grande, è preciso, Non ne ha più e meno, Questo c'ha la scala sino a 9 più 60. E sei tra il 20 e il 15, 9 e 18, 9 e 17. Ok, Va bene. Gianni, ma quando io ho una fotografia, tu mi hai mandato un baracchino, cos'è, un baracchino che hai comprato tu o qualcuno te l'ha mandato e poi l'hai girato a me? Quale? Quello lì è un baracchino che hanno messo su un forum, che a me è piaciuto e te lo mando per fartelo vedere. Quello della General Electronic? Esatto, ti è piaciuto? Bello, molto bello, caspita, altro che... È un bel baracchino veramente. E vabbè, comunque, ce ne sono tanti, tantissimi che pure noi non conosciamo nemmeno. Gli americani ne hanno costruito tanti. Quella era roba americana già, per cui lo sappiamo, il valore è quello che deve essere. Già, hai visto quella foto che hai mandato anche a me? Severi, non mi ricordo come si chiama, per dirti dove andare. L'abbiamo proprio commentato stamattina con Roberto. L'ho detto bellissimo, veramente molto bello. Hai visto quello che hai mandato, la foto tua a Giulio, che hai mandato anche a me? Quello è per Tonino, ancora più bello. Ma veramente ancora più bello. Allora deve essere un bellissimo affare. E meglio così, dai. Tonino stava cercando un Galaxy e ha trovato di meglio, dai. Evidentemente gli ha mandato quello il cognato, però è molto bello, caspita, se no non esce bene. Stavo facendo le prove, no, io non c'ero ieri notte, Giulio. Stavo guardando un programma qua che mi interessava, anziché guardando là, perché loro stavano guardando un film. E nel frattempo stavo ascoltando Antonello facendo le prove con Tonino. E arrivava veramente molto bene. Molto bene, le ha messo il panel più 3B, ma la radio è strepitosa. La stavo commentando stamattina con Roberto. È veramente molto molto bella, guarda, è grande quanto il Galaxy, Gianni, c'ha le maniglie, però è molto più bella del Galaxy. Ma poi c'è le scale, no, di quelli che conosciamo voi non è nessuno. No, non ha niente a che fare, è un vintage però di ultima generazione, diciamo quasi completo di tutto, c'ha le bande laterali, c'ha tutto, c'ha anche la regolazione della potenza, una bellissima radio, però è sempre un vintage, perché sai, sappiamo oramai che le radio che non sono più in costruzione sono vintage. Però quella è molto bella, caspita, è bellissima, non bella, se lo dico io che sono appassionato di radio, credetemi, è molto bella, non mi ricordo il nome, stavo commentando con Roberto ma non mi ricordo il nome. Vabbè, già la sentirà a Tonino e mi lo chiedo di farmela vedere, che io sono curioso. Io avevo il telefono nel cassetto, per quello la Luca non lo rispondeva, non l'ho sentito. Mi sono sdraiato, mi stavo ascoltando, poi entro, invece mi sono dormito. Ma il telefono si tiene nel cassetto si tengono le chiavi della macchina, no? Il telefono sempre, io anche se non ce l'ho qua, però magari adesso è nel salone, ma è... lo vedo da qua, se squilla vale lo prendo, e se lo pongo in busciacca o nel cassetto come fai a rispondere? Gianni, sì, fatti mandare la foto, io non ce l'ho il numero di Tonino, ma lo devo far dare, così lo metto su WhatsApp, magari su WhatsApp, così scambiamo qualche foto ogni tanto, però già me la faccio dare, è molto bello, guarda, se c'è il numero fatelo mandare, perché è veramente una bellissima radio, vai giù. Ok, certo, non ci sono dubbi, ci credo, altro che... ce ne sono tante, ma io ieri stavo guardando così al computer e ho scritto Radio CB, Radio CB Vintage Americani, ed è venuta fuori una sfilza di radio belle, una meglio dell'altra, una più bella dell'altra. Poi alla fine ho visto anche l'Indoit 294, quello appunto che hai visto pochi giorni fa tu, da Gianni Capri 2. Sai quanto lo stanno vendendo quello qua, quel baracchino lì? Bello, è fiammante, nuovo fiammante. 190 euro. Ma che pensi? Io mi ricordo in quegli anni passati, quando l'avevo comprato, che avevo pagato io 150.000 lire. Adesso lo stanno vendendo 190 euro, devo dire usato, però bello, nuovo, fiammante, molto bello. E c'era, poi ho visto anche qualche microfono, qualche Turner più 3, anche addirittura c'è un Turner più 3, 9 euro e 60, una cosa del genere. Però devi far guardare dall'America, poi c'è, già lo sai cosa c'è, c'è da pagare un sacco di soldi per il trasporto, perché si sa come funziona lì, per cui non lo so. Poi ce ne sono altri di Tanne più 3, 45, 60 euro, se ne dipende da chi lo sta vendendo. Vai qua. Sì. Sì, beh, io l'Inuit ce l'avevo, nuovissimo, perché l'ho dato, venduto a Marco Scorpion, quindi lui Mondezza me lo prende lo stesso. Bellissimo, nuovo, colore originale, quel celeste martellato, quello è il colore originale dell'Inuit. Nero non me lo ricordo, io c'avevo quello originale, l'avevo venduto a lui per 100 euro, dico anche il prezzo. In più l'avevo dato assieme un M600 da tavolo, o l'M500, non mi ricordo. Questo è fiammante, ecco, l'ho comprato da capo, è fiammante, è del Polmar, il 7000, che è simile all'Inuit, però questo è nero, tutto cromato, ed è fiammante, veramente nuovo, altrimenti anche questo standard è nuovissimo. Gli altri invece che aveva, questo Pellegrino, bellissimo, aveva un Simba, tutto distrutto, un Pell Simpson base con l'orologio meccanico, lo stesso, la scritta rossa, i canali rossi, 40 canali, la cassa, Giulio, tutta magnata da Risorighi, sai che trucciolare, no? Il topo dove c'è roba a rosicchiare, soprattutto trucciolare, da fare in polvere, l'ha fatto in polvere, ha giudito quello, mette, non lo voglio, non ho preso niente, ho preso solo questo qua, perché è nuovo, era sporco, però l'ho pulito dentro, fuori, disinfettato, tolto le manopole, l'ho fatto nuovo, però è nuovo, e questo è tutto grigio, colore Kenwood, questo è lo stesso colore del K, ho affiancato l'autoparlante esterno per vedere il colore preciso del K, non capisco perché abbia questo colore, non lo so. Va bene, signori, dai, è giunta l'ora ai pavesini, non so se ve ne siete resi conto, però è l'una. Quindi io mi stacco, un piacere è stato fare due chiacchiere con voi anche stamattina, spero stasera si possa chiacchierare allo stesso livello. Ciao Giulio, buon pranzo, ciao a te Gianni Doppio, ciao a Luca e chiunque fosse in ascolto sul 10. Io mi stacco perché devo andare dall'altra parte, ok? Ti cambio per Gianni, ascolto il finale e poi chiudo, grappa. Ciao Claudio, buona carica, buon tutto, ci sentiamo. Anch'io sto chiudendo, così vado già a portare un po' il cane e poi faccio il pranzo. Là. Ci sentiamo, buona continuazione, dai, se vi uscite di pappata. Vabbè, buon pranzo, là. Ci sentiamo. Ciao anche a te Giulio, se ti ricordi che sono in ascolto, faccio il corretti anch'io. Ok, ciao Claudio e ciao Gianni, grazie a voi due per la chiacchierata. A stasera a fare altre quattro chiacchiere, se Dio vuole. Ci sentiamo, ciao, buon pranzo a entrambi, ciao, chiudo. Ciao a tutti, a stasera se coincide, ciao. Cambio! Sapore di sale, sapore di male.